Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. In questo momento ci stiamo giocando il campionato e bisogna tenere la testa sul campionato senza avere secondi pensieri in questo momento, secondo me. Tutto il resto lo dovremo valutare dopo. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Certo che Sarri ha cambiato la Juventus, lo dice un tifoso juventino che le partite le ha viste tutte, ma l'ha cambiata in peggio. Probabilmente sto sui coglioni a qualcuno, cioè che ti devo dire, non lo so. Mi interessa relativamente leggere delle opinioni di altre persone su una materia in cui io penso di saperne di più. Gran merito a Sarri, perché vincere il campionato con gente più vecchia di un anno, Chiellini fuori tutta la stagione e cercando di fare di inculcare un gioco nuovo alla squadra, vince il campionato, secondo me è un gran merito. Se arrivi secondo sei il primo dei perdenti, ecco, quindi noi dobbiamo pensare questo. Capisco benissimo che chi si accontenta anche di questo, ai miei insegni di non accontentarsi, ecco, cioè il secondo posto per me non ha significato. Conte impazzito, non riesce a sopportare l'idea dello zero titoli, che mica stai alla Juve, ad Antonio! Conte è un grandissimo allenatore e con ogni probabilità il più bravo italiano in questo momento. Eccoci qua, Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno. Radio Twitti? Sì, Radio Twitto su Zaniolo, perché sì. Questo ragazzo è continuamente sui giornali e veramente il mio augurio, la mia speranza e quasi il mio consiglio è cercare il più possibile di parlare come ha fatto per esempio ieri col campo, sul campo, perché quella è la cosa veramente fondamentale. Secondo me si è creata un'attenzione, una sovrattenzione mediatica su questo ragazzo, anche un'etichetta che secondo me non è del tutto giusta, insomma, per cui tende a essere spesso sotto i riflettori, non soltanto per le cose bellissime che sta a fare in campo, e quindi è più che altro un in bocca al lupo. So che c'è fra l'altro una persona molto famosa che lo segue adesso dal punto di vista della comunicazione, un in bocca al lupo, parlare in campo come sa fare, perché quando parla in campo è bravissimo e ha tutto il diritto di crescere con calma, con serenità, anche se il suo talento da un certo punto di vista è una condanna, perché lo mette sempre sotto i riflettori. Poi sentiremo anche cosa ha detto Fonseca a tutela di Zaniolo, un po' la stessa cosa che ha detto, anche qui sentiremo Conte a tutela di Lautaro. Ciao Paolo Condò. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come va? Non giochi a golf oggi, eh? Posso sostenere la tesi perfettamente opposta a quella di Pierre? Ma è chiaro, siamo qui apposta, mio caro. Allora, perfettamente opposta. Zaniolo dovrebbe parlare con un giornalista molto bravo, ce ne sono parecchi nel nostro paese, un giornalista molto bravo, e rispondere alle sue domande e raccontarsi, descriversi, perché da quando i giocatori si sono abituati a parlare attraverso Instagram, ecco, mandano dei messaggi il più delle volte sibillini, poi sentono la necessità di mandarne uno chiaro perché altrimenti ci sono i moti di piazza, ecco, ma non si capisce una beneamata, e lasciamo perdere, ma che cosa di quello che loro pensano, di quello che loro vogliono, di quelli che sono i loro comprensibilissimi punti deboli, stiamo parlando di ragazzi, e di quelli che sono le loro aspirazioni. E così, se questa generazione di calciatori mi facesse la cortesia di fare ogni tanto una bella intervista sulla Gazzetta dello Sport, sul Corriere dello Sport, su Sky, su DAZN, sulla Rai, cioè sui media, diciamo, dove io in questo sono tradizionalista, confesso, ma sui media che sono ancora quelli di larga diffusione, ecco, magari non più come una volta, ma di larga diffusione. Ecco, io per esempio io non ho la minima idea, ma proprio la minimissima idea, mentre conoscevo molto bene Vialli, Mancini, Zenga, Del Piero, Buffon, i ragazzi, quando erano ragazzi, conoscevo le loro aspirazioni, i loro sogni, le loro debolezze e così via, e non ci ricamavo sopra, ma cercavo anche di presentarli nella maniera migliore possibile al nostro pubblico. Io di, come si chiama, Federico Chiesa non so niente, non so nulla, non ho idea di cosa pensi minimamente, cioè se sia simpatico, antipatico, se sia intelligente, se sia limitato. Io conosco benissimo il padre, ecco, ma di Federico Chiesa non so niente, e secondo me all'interno dei un mondo come quello dello sport, dove la comunicazione è importante anche per tutta una serie di valori che inevitabilmente i ragazzi vanno a ricercare nei loro eroi, nei loro giocatori, secondo me una comunicazione, ma attenzione, allora, la comunicazione di oggi, quella via social, è essenzialmente agiografica, cioè viene proposto l'aspetto... Io invece vorrei conoscere anche i loro punti deboli, perché sono i punti deboli a fare una persona. No, non, certo, non Paolo, sì, potremmo allargare il discorso alle modalità di comunicazione. Non dico che non deve, che anche non deve dei nostri ragazzi. Io non dico che non deve farsi intervistare, io dico che deve lavorare solo sul campo come sta facendo, perché in campo ha questo tocco magico, e sul resto sì, sono d'accordo. È chiaro che insomma la comunicazione, questo è un discorso che vale in generale per tutti, per tutto il mondo del calcio, sì, però, in maniera, ecco, particolare. Che dietro un'intervista si possa nascondere un problema più che un'opportunità. Perché io ho detto con dei giornalisti bravi, e ce ne sono tanti di giornalisti bravi, che sono per i giocatori delle opportunità di farsi conoscere. Sì, che non hanno, se posso permettermi, che non hanno l'ossessione di dover tirare fuori uno scoop dove non c'è, polemica, perché tutto adesso, poi chiudiamo questo momento la festa del giornalismo di Perugia e cominciamo a parlare del campionato, però io credo che veramente uno degli aspetti fondamentali del rapporto fra giocatori, allenatori e giornalisti in questo momento sia la ricerca, delle volte ossessiva, della notizia, dello scoop, che in qualche caso onestamente è fuorviante e crea problemi, no? Però al tempo stesso che la comunicazione, quando viene fatta in maniera seria, corretta, eccetera, eccetera, sia un'opportunità e non un limite, questo è assolutamente evidente. Comunque, il mio concetto è di concentrarsi sul campo, perché anche ieri ha dimostrato che ha grandissimo potenziale, quindi di essere da questo punto di vista più forte dell'inevitabile chiasso e rumore che fa tutte le volte. C'è stata una bella intervista su DAZN di qualche tempo fa, piedi per terra, che magari è ancora nella rail, come dice il mio amico direttore Marco Foroni, quindi magari su DAZN qualcuno la può recuperare, ma sono d'accordo, sapersi raccontare è importante. Allora, adesso ci accuseranno di non voler di essere anti-juventini, perché non vogliamo parlare di quello che potrebbe essere il giorno dello scudetto della Juventus. No, parliamo subito, lungamente. 800 24 00 24, se volete parlarne anche voi, però dato che per Paolo Condò lo sport di elezione non è il calcio ma il tennis, correggimi se sbaglio, che viene dopo il basket, però in questo caso si parla di match ball. Primo match ball stagionale della Juventus, che avrà tutto l'interesse nel monetizzarlo anche per non perdere troppo tempo e troppe energie. E l'unica cosa, la cosa che ti chiedo è, dato che Pierluigi Pardo non ha torto nei giorni scorsi, ha parlato di rimpianti delle altre, qual è la misura del rimpianto delle altre? Ma sai, questo sarà il nono scudetto consecutivo, questi 9 scudetti. Mostruosa normalità. Ne abbiamo avuti 2 o 3 combattuti di questi campionati, il primo naturalmente. Quello col testa a testa col Milan, quello col Napoli, Napoli. Napoli vinse a Torino a 3-4 giornate dalla fine, così. E ne abbiamo avuti alcuni vinti molto alla lontana. Questo è uno scudetto che la Juventus si mette sul petto anche grazie a una concorrenza che si può mangiare le mani, perché il passaggio da Allegri a Sarri ha segnato alcune difficoltà, peraltro ampiamente previste e normali, alcune difficoltà che le altre squadre non sono riuscite a capitalizzare. Sì. Naturalmente si parte dall'inizio, Napoli era la squadra che era una delle candidate che è saltata subito, saltata per immediatamente. Ecco, poi si passa per l'Inter, che doveva essere la sua principale antagonista, ed è praticamente nel 2020 è sempre stata a una certa distanza. La Lazio ha fatto una grande prima manche, ma ha inforcato, direi, fin dall'inizio la seconda manche, e poi c'è la squadra che noi tutti consideriamo quella che ha giocato il calcio più bello della stagione, cioè l'Atalanta, ma che secondo me è quella che può dare i maggiori rimpianti di questa stagione in campionato, però, ovviamente. Però perdonami Paolo, l'Atalanta sono d'accordo, però non poteva immaginare prima di trovarsi così in alto. Due delle tre antagoniste di fatto erano outsider, sono outsider, perché Lazio, Atalanta, e questa cosa secondo me ha inciso un po' nella loro, dal punto di vista della Lazio, sicuramente sulla profondità della rosa, anche se io rimango convinto che senza il lockdown forse non l'avrebbe vinto, ma secondo me la Lazio avrebbe lottato fino alla fine, ed era la mia favorita se non ci fosse stato il lockdown, perché aveva questo grande vantaggio di giocare una volta a settimana. E l'Atalanta ha perso qualche punto nella prima parte della stagione, al di là dei rimpianti di Gasperini e di scontri diretti, anche con qualche recriminazione arbitrale, non riaprirà il file, ma per cronaca va detto, perché Gasperini lo ha più volte ricordato. Sicuramente nella prima parte della stagione l'Atalanta ha perso dei punti per due motivi: un po' perché la Champions comunque ha avuto un impatto, ha pesato un po', e un po' forse perché non era ancora del tutto consapevole della sua certo, forza. Non poteva perché, pensare. Per questo dico che alla fine è quella che, adesso non so chi arriverà a seconda, lo vedremo nelle ultime giornate, però alla fine è quella che ci è andata più vicino, l'Atalanta, a competere con la Juve fino in fondo. Sì, resta il fatto, Paolo, che Sarri e Conte sono due trapianti ancora a rischio di rigetto in questo momento. No, a rischio di rigetto no, perché penso che saranno entrambi su quella panchina l'anno prossimo. Sono due opere aperte, chiamiamole così. Sono due opere aperte, e certamente io insomma sostengo da tempo questa cosa, che Sarri e Ronaldo siano un po' una contraddizione in termini. Sì, certo. E che quindi Sarri debba sfruttare il tempo, debba guadagnarsi il tempo, e naturalmente vincendo lo scudetto una stagione se l'è guadagnata, per arrivare poi a una squadra. Già l'anno prossimo Arthur e Kulusevski sono giocatori che secondo me si adattano di più al suo calcio, soprattutto Arthur. Ma io credo che comunque, Paolo, per più che caratteristiche tecniche, io parlerei di disponibilità al verbo, insomma, perché secondo me è questo che stride un po' nella Juventus di quest'anno, con un gruppo di giocatori abituati a giocare e vincere tanto e spesso, sempre in un certo modo. In là con gli anni arrivi lì, gli dici che devono fare cose diverse, non tutti possono essere d'accordo. Ma è esattamente quello che è successo. Sarri, devo dire che è stato bravo a trovare un compromesso, altri allenatori si sarebbero schiantati contro questo ostacolo, lui ha trovato un compromesso che ci fa dire bravo che vinci lo scudetto, ci aspettavamo un altro tipo di gioco, lo potrai magari sviluppare l'anno prossimo. Ecco, questo è quello che ci fa dire di Sarri. Poi cioè, non è che lui, poi come sempre lui è un po' colorito nelle conferenze stampa, il fatto che tutti noi ci aspettassimo di più dal punto di vista estetico del suo calcio, insomma, c'è un'unanimità attorno a questo. Sì, anche se la misura della Juventus alla fine ce la darà l'agosto, l'improbabile agosto delle coppe. La misura del feeling fra società e Sarri ce la darà la prossima campagna acquisti, dando per scontato, anche se insomma la mano completamente sul fuoco non ce la mettiamo, ma sarà molto probabile ovviamente che Sarri resti, anche perché questo è un anno ovviamente strano, particolare, nel quale anche per cambiare c'è veramente poco tempo anche dal punto di vista proprio fisico. La misura del feeling fra Sarri e la società ce la darà il mercato, perché non c'è alcun dubbio che questa sia una squadra fortissima, ma non è una squadra sarriana in senso stretto. Quindi se la società dovesse decidere di dare a Sarri un'apertura di credito dal punto di vista proprio della dell'impostazione tattica, io credo che vedremo acquisti di un certo tipo, una squadra più sarriana, che quest'anno oggettivamente non c'è stata, è una squadra fortissima. Io penso che quando arrivi a un certo livello, e questo se vuoi è il vero dilemma sulle qualità di Sarri, che comunque sono indiscutibili, ma forse sono più da allenatore di campo che da gestore di uomini, ma questo vedremo nel tempo, che tipo di tendenza ci sarà. Insomma, è chiaro che una squadra un po' più sua lo aiuterebbe. Certo. E quindi vedremo se ci sarà questo tipo di impostazione. E io comunque non vedo l'ora che arrivi il giorno, penso che arriverà quel giorno in cui vedremo la Juventus contro in linea di massima l'amico di Paolo Condò che allena il Manchester City, per rimanere Sì, penso che il Manchester City, Real Madrid va rispettato e moltissimo per quello molto. Che ha saputo fare e così via, però non c'è dubbio che il Manchester City, avendo vinto 2-1 al Bernabeu, parte con almeno il 70% di possibilità di passare il turno. Anche se Zidane, allenatore di questo disgraziato 2020, di questo titolo, lo merita. Ma non c'è dubbio, anche perché ha dimostrato di saper vincere in un modo diverso rispetto ai tre titoli precedenti. I tre titoli precedenti avevano Cristiano Ronaldo proprio sullo stemma, qui ha vinto con la miglior difesa. Insomma, ha cambiato completamente la squadra mantenendola vincente. Bravo lui e... di noia, o perlomeno tanti di noia, io compreso, che non si erano ancora compiutamente accorti di quanto Zidane sia bravo. L'altro giorno pensavo che alla fine Zidane ormai è sulle orme di Cruyff come giocatore pazzesco che diventa anche un grande allenatore. Sì, e io continuo a pensare che ogni club nel suo DNA abbia una tipologia di allenatore, non a caso quelli che hanno vinto di più nell'ultima era del Real Madrid sono stati lui e Del Bosque, che sono due allenatori sì. più o meno dello stesso esatto. tipo. È il discorso che facevamo prima, che poi se vuoi riporta, a me non piace molto la distinzione tra risultatisti e giochisti che facevamo un anno fa di questi tempi, o magari nella primavera del 2019, è vecchia. Divisione però, vecchia. Però secondo me a me piace di più eventualmente la distinzione tra allenatori di gestione di uomini, quindi più strettamente manageriali, che hanno qualcosa in più nella psicologia, nella comunicazione, nell'abitudine a trattare i grandi campioni, e allenatori invece più di campo, più di tattica, più di gioco, che magari hanno qualche elemento rivoluzionario in più. E il discorso di Sarri si lega tantissimo a questo ragionamento, perché lui rientra sicuramente nella seconda categoria, che è una categoria nobilissima, anzi è una categoria che guida l'innovazione del gioco del calcio, quindi a questa categoria dobbiamo guardare con grande simpatia. Però ecco, poi quando tu trovi personaggi alla Zidane, hai citato Del Bosque, lo stesso Ancelotti, lo stesso Capello, sono stati allenatori che hanno, lo stesso Mourinho, che hanno soprattutto trovato come area di eccellenza quella della gestione dei propri giocatori, del tirar fuori il meglio dei propri giocatori attraverso un rapporto speciale, attraverso una capacità incredibile di motivazione e devo dire anche di lettura tattica sì. delle partite. Anche se adesso c'è una terza via, che è quella che parte da Klopp, che abbiamo visto festeggiare in uno stadio sì. vuoto in immagini che sono tipiche di questo periodo. Questo filo rosso che parte da Klopp passa attraverso Gasperini, arriva a Juric e non so a quali altri, Paolo. Io quelli accomuno abbastanza, non completamente, ma abbastanza a quelle che Pier chiamava gli allenatori di campo. Certo, innovazione. Esatto, sono innovatore. A volte l'innovazione è anche il ritorno al passato, tipo la famosa marcatura uomo di Gasperini. Se tu vai a vedere la capacità di rigenerare giocatori che ha avuto Gasperini, o anche Juric, e la capacità di prendere dei giocatori eccellenti e far capire loro che invece sono dei campioni, che ha avuto Klopp con Mané, con Salah, con Firmino e così via, e fanno parte sì. Tu dirai, sono anche molto bravi a motivare questi giocatori e a considerarli così, però secondo me nel discorso che faceva Pierre rientrano gli Ancelotti, gli Allegri, i Zidane e così via, che sono quelli, gli uomini capaci di sussurrare ai fuoriclasse, sì, no? Bravo. Ecco, per citare un vecchio. In questa categoria, non so dove si collochi bene in questa insomma, struttura di allenatori, di filosofie, quello che non vedremo mai a Milano, almeno l'anno prossimo, cioè Ragnik. Tu scrivevi tre giorni fa sulla Gazzetta, attenzione perché... L'ho spaventato tutti, mi sa. Attenzione che qui il rischio, mica riparti da zero, amico mio, riparti comunque da una base sotto la quale, da un par sotto la quale non puoi scendere. Ma difatti io nelle varie cronache dei retroscena di questo grande cambiamento di Gazidis, cambiamento di pensiero di Gazidis, una cosa che non ho capito, perché c'è stata una cosa che non succede mai in questi frangenti, e cioè a un certo punto l'allenatore che tutti quanti davamo per già firmato, già arrivato praticamente a Milanello, basta, non arriva più. Solitamente c'è silenzio da quella parte. Certo. Il che poi avvalora tutti quelli che odiano i giornalisti, cioè, sono tanti, faccio vedere i social, che dicono: coglioni, non avete capito niente, avete scritto balle per tutti questi, e dimenticando che Boban se n'è andato perché non voleva l'arrivo di Ragnik, che Maldini è stato molto chiaro facendo nomi e cognomi e così via. E Ibra ha detto quello che ha detto, Ibra. Ibra ha detto quello che ha detto, però comunque ci siamo inventato tutto, vabbè, ci siamo inventato tutto. Però stavolta, a dimostrazione che non c'eravamo a inventare di tutto, c'è stato addirittura il comunicato di Ragnik. Sì. Beh, ma in precedenza c'erano stati anche messaggi, non so fino a che punto opportuni, Sì, ma stavolta tu hai mai visto un allenatore che sembra sicuro che poi alla fine non va e che dice proprio a quel club: abbiamo deciso di comune accordo di non... Che non c'erano le condizioni. Che non c'erano le condizioni. Cioè, nella sostanza, abbiamo deciso di comune accordo che Pioli ha fatto talmente bene in questo periodo che arrivare lì diventa impossibile, perché Ragnik sbaglia le prime tre partite, cosa che può essere normalissima per uno che arriva in un modo diverso, e sono tutti che vanno lì a tirare i pomodori, perché ma come, avevamo una squadra che stava andando, perché il Milan sta andando con una meraviglia in questo periodo, avevamo una squadra che stava andando una meraviglia, abbiamo preso Pirla, che Pirla non è assolutamente, cioè vorrei che fosse molto chiaro che il mio favore alla scelta di mantenere Pioli non vuole ridurre in nessun modo. Ho letto un articolo molto bello di Daniele Manuzia ieri sull'Ultimo Uomo, ecco, dove dice che è emersa tutto lo sciovinismo e il conservatorismo della critica dei giornalisti italiani in questa storia, perché si va a leggere un po' di gente e dice: ah, oh, basta, che tedesco se ne resta in Germania, tutte queste, queste prese di posizione. No, il calcio migliora dalla contaminazione, e quindi come la Premier è diventato di gran lunga il campionato più bello perché ci sono allenatori italiani, allenatori tedeschi, allenatori di tutti i paesi che sono andati lì a lavorare, spagnoli, catalani, a lavorare e a vincere, portoghesi, Mourinho, così a me piacerebbe nel campionato italiano. Però metà di allenatori, forse era un rischio che il Milan in questo momento non poteva correre. Lo diceva Di Caro qualche settimana fa, quando ancora l'ipotesi Ragnik sembrava assolutamente viva. È giusto, cioè, si è creata una dicotomia secondo me completamente sbagliata tra simpatici e antipatici, cioè voler bene a Pioli, stimarlo come allenatore e come persona, sottolineare i risultati fondamentali che sta avendo e anche il comportamento. Alla fine capire che questa scelta ci può assolutamente stare non vuol dire che Ragnik sia un pirla, lo ribadisco, era una scelta secondo me interessante, molto interessante, di apertura di un ciclo, affidandosi a una persona che comunque viene da un altro calcio, quindi è proprio una cesura molto evidente, molto profonda col passato, che aveva pienamente la sua logica. Sì. È successo qualcosa di straordinario nelle ultime settimane e probabilmente i comportamenti, non soltanto i risultati di Pioli, sono stati tali da dargli questa possibilità. Poi, però sono d'accordo momento... con Paolo, cioè, c'è stata veramente a un certo punto una componente qui sembrava veramente simpatici contro antipatici, non è così, sinceramente. Ripeto, è anche un rischio che il Milan in questo particolare momento storico forse non aveva le possibilità e nemmeno il tempo di correre. Io voglio chiedere un'ultima cosa a Paolo Condò, che insomma ho cercato anche l'altro giorno, che riguarda il pallone d'oro, di cui lui è l'unico giurato italiano. A noi non è piaciuta la decisione di non assegnarlo, Paolino. Ma neanche a me. Anche a me, io voto sempre molto volentieri il pallone d'oro, lo avrei fatto anche quest'anno, però che ti devo dire? No, un po' irrispettoso nei confronti di tutti quelli che portano a casa la, che guidano in porto tra mille difficoltà, in modo strano. I francesi hanno commesso, secondo me, il grande errore di interrompere prestissimo il loro campionato, e poi hanno vissuto male tutta questa storia, anche l'equipe a un certo punto ha fatto la prima pagina, ma che siamo i più scemi del villaggio, e tutti quanti giocano e noi siamo gli unici che non giochiamo e così via. E quindi probabilmente all'interno di questi ragionamenti è scattata anche questa cosa, che poi, voglio dire, si è detto sciovinismo, ma se il Paris Saint-Germain avesse fatto, io non glielo auguro perché spero ovviamente che passi l'Atalanta, ma avesse fatto una grande Champions, avesse vinta, facevano in tempo a darlo a Mbappé, anche se aveva interrotto il campionato. No, ma infatti questo, vabbè, allora facciamo una cosa, Paolo, adesso è presto perché bisogna aspettare la Champions, però visto che tu hai sempre giustamente degli obblighi di confidenzialità, facciamo che quest'anno in uno dei nostri collegamenti ci dai il tuo voto, ce lo potrei dare dopo la Champions, direi, no? Direi che dopo la Champions il voto sarà a vostra disposizione. Fantastico, ciao Paolo. Okay, abbraccio. Ciao Paolo. Ciao Carlo. Domenico Macerata, poi salutiamo anche Pierluigi Pardo e traghetteremo dopo la borsa parlando d'altro. Domenico, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao Pier. Ciao. Ci siamo conosciuti a Overtime a Macerata, non so se verrai ancora. Grande festa, salutiamo Michele. Grande, sì, spero di tornare. Grandissimi. No, io volevo solo dire due cose velocissime. Sono d'accordo per il pallone d'oro, è uno scandalo non assegnarlo, però vabbè, ce ne faremo lo sapranno loro. Più che altro, no, sulla questione Sarri volevo riagganciarmi un attimo. Io credo che qualcosa di buono si sia visto, se le vediamo anche le formazioni, l'atteggiamento della squadra. Non credo che proprio questa cosa del suo gioco sia completamente assente, primo, e secondariamente credo sia giusto dare atto per avergli rilanciato Dybala, che ricordiamolo l'anno scorso con Allegri eccetera eccetera, e adesso ultimamente sembra il Messi del Barcellona, cioè guardiamolo un attimo quello che fa, una grande una grande stagione di Dybala. Io credo che molto merito sia dello stesso Dybala, Piero. Sì, molto merito dello stesso Dybala. Io sono d'accordo sull'idea che per esempio mi viene in mente Sassuolo-Juve, che è stata una delle partite peggiori della Juve nell'ultimo periodo. È stata una partita completamente diversa rispetto all'epoca allegriana, è stata una partita nella quale anche la Juve ha avuto tante occasioni, però secondo me quello che è mancato in questa stagione fino a questo momento, magari la Juve, e lo auguro a Sarri, questa cosa la conquisterà adesso magari proprio in Champions League, è questa capacità di essere estremamente divertente davanti, estremamente pericolosa davanti, ma con una solidità. Certo. Nei momenti in cui è stata divertente davanti, però ha sempre concesso tanto. E soprattutto ha avuto dei passaggi a vuoto che nel passato la Juve solitamente non aveva sul piano proprio della concentrazione. Quindi, però ti ripeto, secondo me poi la cartina al tornasole vera arriva quest'estate, perché quest'estate, certo, se Sarri, come credo, rimarrà, vediamo che mercato nel poco tempo che ci sarà a disposizione verrà fatto. E non è un discorso di soldi, o perlomeno è un discorso di impostazione, progetto, certo, di progetto, esatto. Progetto. Ciao Pier, ciao, un abbraccio, borsa, torniamo. Però dovete ammetterlo, piaccia o non piaccia Sarri, quest'anno non ci si addormenta più a guardare le partite della Juve come succedeva negli ultimi 5 anni, o no? Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Convocati. Allora. Allora, questa mattina ho chiamato il mio amico Carletto Pernat per parlare di altre cose, ma la prima che considerazione mi è uscita riguardava il derby di Genova. Questi ragazzi hanno fatto una cosa splendida, salvarsi con 4 giornate di anticipo dopo tutto quello che era successo. Può darsi che il Genoa ne avesse un pochino di più, però in campo io non l'ho visto. Ho visto due squadre che hanno lottato, che volevano vincere tutte e due le squadre. Aver vinto stasera per noi è davvero molto molto importante. Sappiamo che non è finita, sappiamo che c'è ancora molto da fare, anche se poi mancano 3 partite, ma sono 3 partite tosto impegnative dove dovremmo essere all'altezza per poter arrivare a dove vogliamo arrivare. Allora, la considerazione che ho fatto a Carlo Pernat questa mattina, ma giusto per farlo un po' incazzare, mica per altro, è che la Samp si è messa una mano sul cuore genovese, non sempre generoso, e insieme hanno costruito un ponte verso la salvezza di tutte e due. Buongiorno Carletto. Buongiorno, sì, ma non è vero. Mi dispiace dirlo, te l'ho contestato. Guarda, la piccola Non me l'hai contestato, mi hai mandato a fanculo, è diverso. Vabbè, non posso dirlo, ma l'ho fatto, è vero. Con termini nemmeno tanto scherzosi, ti dico la verità. No, ragazzi, guarda, ti dico, l'umore era pessimo, perché tutti i tifosi sandoriani e compagnia bella dicevano che se vincevamo ci lasciavano vincere. Se pareggiavamo ci lasciavano pareggiare, sì. Se ci battevano facevano quello che abbiamo fatto noi quando l'abbiamo detto in B col mitico Boselli, se ti ricordi, che non sapeva niente. Per cui guarda come ho dormito bene, ma come ho dormito bene, ragazzi, non avete un'idea. Non siamo salvi e non ci hanno regalato niente, nonostante stamattina mi hai fatto incazzare, ti dico la verità. Ciao Umberto Zappelloni. Ciao, ciao, diciamo che è difficile che a Genova si regali qualcosa. È difficile che a Genova si regali qualcosa, però insomma no, adesso fuori dallo scherzo, per il calcio genovese siamo tutti contenti. Cosa può essere Genova senza il derby, anche se qualche sandoriano oggi sarà arrabbiato perché penserà il contrario. Senti, invece, venendo a cose di motori che approfondiamo, è ufficiale, Marquez domenica corre. Ma è ufficiale, ti dico, perché io lo sapevo ieri, sai perché? Mi ha mandato un sms qualcuno della Honda e mi ha detto che ha chiamato tutti gli uomini della squadra che erano già partiti per andare a casa di presentarsi a IRS. Quindi questo vuole scalare l'Everest con le scarpe da tennis, come dico io. E le scala, perché questo, quando si pone un obiettivo, ragazzi, non ci sono santi. E poi sono tutti fit, hai visto? Anche Cracchio, Rins, nessuno vuol perdere una gara, si diceva che ci fosse qualche perplessità della Honda, ovviamente fugata, visite mediche sostenute un'ora fa, tutto a posto, visita della mutua passata e Marc Marquez corre. Umberto, ti sorprende? No, Marquez non mi sorprende, perché è un fenomeno assoluto e va contro a ogni logica, ma un po' devo dire che nel moto mondiale non ci sorprende nessuno, perché nel moto mondiale sono fatti tutti più o meno così, e Carlo lo sa bene. Correrebbe veramente anche in gestata, insomma. Ne ho visto anche di peggio, Umberto, No, d'altra parte, no, era i tempi nuvolari che correvano facendosi quasi le gare sulla moto per non cadere, pur di correre, cioè sono fatti così. E Marquez è un gatto, a 2000 vite, insomma. E poi questo è un mondiale particolare in cui non puoi assolutamente permetterti di saltare una gara, perché il rischio diventerebbe no. Certo, è qualcosa di fenomenale quello che sta andando a fare. Io vi dico una cosa, Umberto, ho parlato, scusa se mi intrometto, con il dottor Costa proprio stamattina, no? E ti do un po' una notizia così un po' fresca. Ma detto l'altra cosa, che quella è una frattura che non è pericolosissima, cioè non è una frattura da motociclista, ma detto così, tra virgolette, sai che poi Claudio parla sempre di greci, romani, di piloti, però devo dire che mi ha detto che può correre, perché non è una frattura da motociclista, quindi è una frattura normale, diciamo così, no? che la frattura normale ti fa venire la pelle d'oca, quindi lui correrà e probabilmente in condizioni anche all'80%, questo mi ha detto Claudio. Poi sai, io non sono un medico, ti do una notizia che mi ha detto lui. No, l'abbiamo sentito anche noi l'altro giorno, dove ci raccontava anche che ha messo una placca, lui era più favorevole al chiodo, ma sono questioni mediche. Questioni invece sportive stanno nel fatto, miei cari, Umberto, riparto da te, che a qualunque latitudine sportiva non vediamo l'ora di veder finire le dinastie, queste questi imperi su cui non tramonta mai il sole, che si chiamino Juventus nel campionato italiano, Hamilton in Formula 1, Marquez nel moto mondiale, invece facciamo prima diventare vecchi. Sì, assolutamente, perché è gente che non vuole mollare assolutamente nulla, è gente che è abituata a vincere, ma vuole stare a vincere, è gente che tutte le volte che va in campo non vuole lasciare nulla alla concorrenza, e anche nei momenti in cui sembra che sia pronte a cambiare un'epoca, poi tornano a vincere e continuano tranquillamente ad andare avanti, non si stuferanno mai, e quindi bisogna Umberto, proviamo a richiamarti anche perché dobbiamo anche parlare di Ferrari. No, io volevo, insomma, io non ho dubbi sul fatto che Marquez sarà grande protagonista della gara di domenica, fossi negli altri, però l'altro giorno parlavamo con Paolo Ciabatti, loro sanno bene che avendo vinto la medaglia d'argento nelle ultime edizioni del moto mondiale, un moto mondiale corto senza Marquez per qualche gara poteva offrire una chance che forse non offrirà più Carletto. Sì, sono d'accordo, ma io parlavo anche di prima di che nessuno vuol mollare, anche Valentino Rossi in negativo non vuol mollare, lo vedete, a 41 anni Carlo ha fatto una buttata, onestamente è stato peggio Valentino di sempre, sì. Però non vuol mollare, vedi che non vuol mollare, quindi mi riaggancio al discorso che ha detto Umberto. Il fatto di quello che dici, sì, sono d'accordo, se un'altra gara non c'era, era un campionato molto stravolto e Marquez non lo vuole stravolgere. Io guarda, io pensavo, addirittura penso, che Carmelo Spalletta cerchi in tutti i modi entro fine luglio di mettere d'accordo Malesia e Thailandia per fare quelle due gare in più che non sono state ancora cancellate, tra l'altro, che se si può fare a porte aperte è evidente che si fanno. Lui cercherà di farlo, perché questo mondiale in queste condizioni due gare in più sarebbero veramente determinanti, questo se non importanti. Questo è chiaro, ma come correranno gli altri contro Marquez meno matto? Guarda, te lo dico subito, Quartararo non è stato passato, per cui non ha ancora vediamo il salto di qualità che fa Quartararo, che fa Fabio, perché quando vinci la prima gara poi devi fare il salto di qualità, è importantissima la seconda, perché lì capisci che salto di qualità ha fatto, la puoi fare al 30, al 60, al 90, al 100, dipende, non ha combattuto con Marquez. Gli altri ragazzi fino a Vinales correranno con uno psicologicamente, ragazzi, quando vedono Marquez non dico che lo fanno passare ma è difficile che facciano più resistenza di quello che hanno fatto prima. È stato imbarazzante come Marquez ha passato tutti, ragazzi, imbarazzante, come dicono a Milano, che niente fa, che niente fa. Al di là scusa Carlo, allungo un attimino, scusami, io ho visto il meglio e il peggio di Marquez, il meglio perché ha fatto delle cose che nella mia vita non ho mai visto in 41 anni, il peggio perché a 4 giri dalla fine, quando hai fatto i sorpassi così, sei sulle tele, certo, e vai per terra. Se lui rimaneva terzo, se lui faceva secondo terzo, ma ti rendi conto di quella gara? Se ne parlava per 30 anni. Però Carlo, se non avesse avuto in testa l'idea impossibile andare a prendere Quartararo per completare questa operazione storica, non sarebbe stato Marc Marquez. Stai lì che continuiamo a parlare di questo e di altro dopo il traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque, Ares sarà tutti contro Marquez inaspettatamente. Ne stiamo parlando con Carlo Pernat, ma voglio chiederti. Allora, Ducati ha fatto, Dovizioso ha fatto una grande gara, arrivando terzo su una pista che non gli va giù, assolutamente, su una pista che non è favorevole per la Ducati. C'era la prospettiva di mettere punti in cascina approfittando senza di Marquez, questa prospettiva non c'è. Che Ducati ti aspetti domenica, Ares? Guarda, io ti dico che la prima gara che ha vinto come casa sono la Yamaha e la Ducati. Sì. Yamaha perché ha fatto prima e seconda, la Ducati perché ha fatto terzo, quarto e quinto in un circuito dove si è preso delle belle bastonate. E tra l'altro è arrivata terza, quarta e quinta a poco, diciamo, quasi dalla Yamaha. Questo è importante, per Dovi che ha messo un timbro di andare davanti a Miller, era importante per Dovi, secondo sì. me. Sì. Però adesso io fossi la Ducati lo motiverei. Adesso ha bisogno di motivazione, e la motivazione, sai cosa voglio dire? Il rinnovo del contratto. Sì, infatti, è il momento giusto, secondo me. Non me lo farei scappare, poi dopo se ognuno fa quello che vuole. Sì. Tornato Umberto Zappelloni, direttore, ci sei? Eccomi. Eccolo. Sì, eccomi, qui sono. Senti, da rossa a rossa, io vorrei che con la tua saggezza mi aiutassi a leggere il rimpasto di governo alla Ferrari, con il vecchio saggio Larry Byrne, con qualcuno che è stato rimosso. Io ho avuto la sensazione di un'operazione che nel breve non porterà a nulla, nel medio penso nemmeno, però farà contenta l'opinione pubblica in rosso. Rossa di rabbia. Ma neanche tanto, sai, perché forse ci aspettava una rivoluzione, questa è una rivoluzione molto soft, è un ritocco, è un lifting, non è nulla di clamoroso, sono stati spostati un po' di ruoli, si è cercato di farla più verticale, quindi di aumentare le responsabilità su ognuno, però non c'è l'innesto di qualche tecnico di grido, di qualche tecnico che può portare delle esperienze importanti. Diciamo che secondo me è l'ultima grande chance di Mattia Binotto, perché se non dovesse entrare dei risultati con questa organizzazione, allora poi bisognerà veramente tagliare la testa di chi è responsabile di tutto ciò. E dice che questa è un'organizzazione, l'organizzazione che non funzionava più, perché lui che aveva puntato a un'organizzazione molto orizzontale, questa è un'organizzazione sicuramente più verticale e in un certo senso funziona, dovrebbe funzionare meglio di quella che non ha portato i risultati di questa SF1000. Però sì, obiettivamente ci sarebbe bisogno di anche una campagna acquisti di un certo tipo, che è quella che la Ferrari non ha fatto negli ultimi anni, per essere sicuri di essere all'altezza con la concorrenza quando cambierà drasticamente il regolamento nel 2022. Però direttore, è bene essere chiari anche con chi segue le cose di Formula 1. Organizzazione, puoi farla orizzontale, verticale, laterale, però se la macchina non va, non va, e non andrà nemmeno nei prossimi Gran Premi, quindi è meglio essere chiari. Cioè questa sarà, magari la struttura funzionerà meglio, ma dalla struttura ad arrivare ad una macchina che possa produrre risultati, insomma, non è una squadra di calcio dove cambi l'allenatore, magari ti può anche andare bene. Qui servirà comunque un sacco di tempo. Hai assolutamente ragione, non dobbiamo illuderci che questa già la prossima gara porterà la Ferrari ad avere dei risultati diversi. C'è da augurarsi che possa portare ad avere qualcosa di buono l'anno 21, ma l'obiettivo vero è il 2022, perché quando cambieranno drasticamente i regolamenti, allora che la Ferrari non potrà più farsi cogliere impreparata e presentarsi in ritardo rispetto alla concorrenza. Purtroppo, come dicevi tu, cambiare l'organizzazione, ma se anche avesse cambiato Binotto oggi, la Ferrari non sarebbe rientrata in pista vincente dalla prossima gara. Questa macchina ormai è questa, ce la terremo così fino alla fine di questa stagione, e molto probabilmente anche per gran parte della prossima, se non ci sarà uno sviluppo motoristico di livello. Quindi dobbiamo toglierci ogni illusione da questo punto di vista. Carlo, tu che idea ti sei fatto su questa vicenda? Guarda, io mi sono fatto un'idea, vorrei farti un paragone un po' con la MotoGP, fatta in un certo modo, capitemi. Aprilia, io metto Aprilia e Ducati, sono due cose completamente diverse. Allora, l'Aprilia ha avuto l'ingegnere Albesiano fino all'anno scorso, dove era responsabile, era un po' il team principal e responsabile tecnico, cioè due funzioni in una. Non si può perché il team principal è quello che deve andare a fare la politica, deve andare per i piloti, deve andare a assumere, e l'ingegnere è quello che fa la moto. Quest'anno che è arrivato Massimo Rivola, che Umberto conosce bene, no? Anche tu, che è arrivato dalla Ferrari, fa il team principal, e l'ingegnere Albesiano fa solamente le moto, fa il responsabile tecnico. Come ai vecchi tempi per Nat Witteveen, dai, Witteveen è responsabile tecnico, per quello sportivo. Ti dividi i compiti e l'ingegnere ha più tempo di fare la moto, ha solo il tempo di fare la moto o la macchina. Questo non è stato fatto, cioè Binotto praticamente faceva team principal ingegnere. Questo è assurdo, in una grande squadra, in un team sportivo è assurdo. E adesso verrà cambiato. Questo secondo me è l'errore di base. Poi è chiaro, c'è anche la capacità tecnica, ma questo è un altro discorso. Non puoi mischiare i ruoli. Devono essere ruoli definiti, dove uno fa una gestione sportiva e una gestione tecnica, se no non funziona, questo è il mio parere. Grazie Carlo, a presto. A presto, ciao Umberto, ciao a tutti. Ciao Carletto. Senti Umberto, volevo... perché sì, dimmi. Anche se no non ti spieghi perché tutte le altre squadre sono organizzate in un altro modo, sì, appunto, dalla Mercedes in giù, non te lo spiegheresti, insomma. No, è chiaro. Invece volevo chiudere con te su una considerazione non solo in rosso ma in rosso-nero. L'opinione pubblica invece milanista, rossa-nera, è molto soddisfatta da questa settimana. Tu? Assolutamente, è la prima volta forse che si è stato preso in considerazione quello che volevano i tifosi, che già avrebbero voluto confermare Gattuso. I tifosi erano tutti con Pioli, ma la squadra era tutta con Pioli. Adesso bisogna che la società confermi di essere davvero con Pioli e gli faccia un mercato all'altezza, perché sappiamo che il Milan, per puntare poi alla Champions, ha bisogno comunque degli innesti importanti. Però era giusto non ripartire da zero, visto quello che di buono ha costruito non soltanto dopo il lockdown, ma in tutto il 2020 Pioli, perché comunque è tra le prime tre squadre di questo 2020. E da quando sono arrivati gli esperti, da quando sono arrivati Kjaer, da quando è arrivato Ibrahimovic, abbiamo visto che anche i giovani rendono molto di più, quindi c'è qualcosa su cui costruire. Credo che il Milan abbia fatto una scelta giusta, anche se magari l'ha fatta più per la mancata volontà di Ragnik di firmare, perché veramente ci ha ripensato la dirigenza e ha capito che con Pioli si stava facendo un calcio divertente. Cioè il Milan degli ultimi periodi è un Milan che diverte. Ieri sentivo il mio amico Jelpo parlare con voi e anche lui diceva che non si era mai divertito come in queste ultime partite del Milan, ed è assolutamente vero. Poi magari domani sera dopo l'Atalanta cambiamo tutti idea, perché quella a questo punto è fatta, basta, e non arriva nel momento giusto, però a questo punto è fatta. Quindi sì, ma quello che dicevo anche ieri è che insomma va bene che cambiare idea è prerogativa delle persone intelligenti, però se vince Pioli, vince Maldini, vince Ibrahimovic, non so fino a che punto vinca l'immagine di Gazzidis e del Milan stesso, che per sei mesi ha raccontato una storia diversa. Il Milan ha lavorato in modo diverso, perché su Ragnik si era andati molto avanti. Potrebbe anche esserci la possibilità che forse sta finendo anche l'epoca Elliott. Questi sono altri discorsi che qualcuno sta seguendo da mesi, e magari si è arrivati al momento del cambiamento di proprietà. Bisogna capire anche questo, ed è meglio ripartire con qualcuno con una certezza, almeno dal punto di vista tecnico, che ripartire con un progetto. Sì, certo. Però sicuramente Gazzidis è uscito disinvoltamente da questa svolta contro mano che ha fatto, però ce n'è voluto di coraggio a farla quando avevi già individuato una via. Questo è vero. Tipo di allenatore era un concetto completamente diverso di gestione di società. Grazie Umberto, a presto. A presto, ciao direttore. Ciao, intanto mi comunicano che Mario Balotelli al Como, una suggestione che non svanisce, quindi contratto tra le parti rappresentanti del giocatore, che insomma stanno trattando. Certo che ragazzi, considerazioni fatele da soli, che siete bravi. Grazie a Claudia Schiattone, a Roberta Frisene e Gianmarco Ferronato in regia, ci sentiamo domani alle 2, ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.